se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ciao, grande Alessandro Magno. Ehi, white fan driver. Doni pace al mondo intero, guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo, che anche questa notte a Londra ha colpito civili innocenti. Preghiamo per le vittime e i familiari. They ran up and started stabbing this girl, three of them, and then they stabbed another guy, I think, if I remember right, that was a bit shot. They started running up the road, I started going, everybody run, the terrorists run, run, run. Allora, signori, Londra, con sette morti, il terrorismo, la Premier May che dice enough is enough, quando è troppo, ma che poi che cosa vuol dire? Trump che promette pugni duri, in realtà io ve lo dico sempre, purtroppo dobbiamo avere a che fare con un mondo che è cambiato da un po' di tempo. Chi promette reazioni muscolari in realtà non ha in mano nessuna soluzione. Ma cosa vuol dire? Che reazioni muscolari? Quando è troppo, siamo stati troppo tolleranti. E quindi? Cioè, vai avanti, e quindi cosa vorresti fare? Vorresti prendere tutti i musulmani e buttarli da una rupe? No, per capire. Ovviamente no, ovviamente questa è una provocazione, questo non si può fare, e quindi cosa vuol dire siamo stati troppo tolleranti? Ecco, sì, forse siete stati troppo tolleranti se si scopre anche oggi da Repubblica che uno dei tre killer di Londra era stato denunciato 2 anni fa, tra l'altro da una italiana, che dice l'ho denunciato 2 anni fa perché faceva strani discorsi sull'Islam a mio figlio, che discorsi che non mi piacevano. Ecco, in questi 2 anni che minchia avete fatto? No, giusto così, per saperlo. Quando è troppo certo, quando è troppo. Ma d'altronde che siamo abituati, che dobbiamo abituarci a un mondo del genere, si è capito molto bene in Piazza San Carlo a Torino. Ragazzi, ci siamo fatti l'attentato da solo, ha titolato oggi qualche giornale. Cioè, questo è il mondo in cui dobbiamo abituarci a vivere, anche laddove non c'è nessun attentato, ma c'è solo una psicosi, 1500 feriti. Quattro testa di cazzo, scusate il termine, hanno detto bomba, bomba, è scoppiato il pedale, e c'è stato il panico. Sì, e poi dopo ci sono stati un'altra tre ondate dall'altra parte, rischiano un traiselle per una partita di cazzo, c'è bastato già, no? Devo morire un altro. Lo so. Tra l'altro anche lì, 1500 feriti e più, la maggior parte dei quali per ferite da taglio, perché c'erano cocci di bottiglia ovunque, no? Oh, certo, perché vietare magari il vetro, come si fa in queste occasioni in cui ci sono delle grandi concentrazioni di persone. Cocci di bottiglia ovunque, la maggior parte sono feriti perché chi ha perso le scarpe, chi è caduto, si è tagliato, no? Tutto per niente, è tutto per una bravata, perché qualcuno ha gridato, attentato. Ah, vi rendete conto? Allora, signori, alle 6:34 minuti, questo è il clima con cui vi accolgo. E a Cernusco sul Naviglio, ci sono 19 gradi, nuvoloso, come ci fa sapere Salvatore. Grazie, ringrazio Alessandro Milan, sei un coglione, anche te grazie caro ascoltatore. Albizzate, tempo instabile, 15 gradi, l'amico Salvatore ci fa sapere, mentre a Capri 20 gradi, finalmente è lunedì, Anita, e perché? Vabbè. Lorenza, Jeddah, 32 gradi, oh mannaggia, cosa vuol dire saggio di fine anno? Boh, vabbè, 20 gradi a Gardone, signori, ci fa sapere Piero. Mentre a Ponte di Legno 10 gradi, piove, Umberto, mi spiace, a Siena 14 gradi, c'è uno che ha come simbolo la zebra. La zebra. La zebra come simbolo. Vabbè. Vabbè. Vabbè. Vabbè. E facci già un bel pronostico, dai. Vinciamo facile largo a casa. Registra sta cosa. Vinciamo facile e largo. Si segna bene, eh? Un 3-0. E rimanda in onda il 4 giugno. Dai, in onda il 4 giugno. No, il 5 giugno. Vabbè, il 5 3-0. Giugno manda bene quella registrata. Facile e largo. Secondo me vinciamo, ma vinciamo sul finale, col cuore. Gli ultimi minuti. Numero su Lemina, lo fa fuori secco. Marcelo prova a metterlo in mezzo, all'indietro, e c'è il gol di Asensio. Trionfo Real Madrid. Effettivamente, caro Mariona Di Nolfi, eccoci qua. Buongiorno Marione. Te ne approfitti, del nostro giorno di dolore. Largo, cosa, largo e facile. Fa. No, hai detto largo e facile. Largo e facile. No, no, non, no, guarda, non me ne approfitto. Guarda, dico solo questo. Dico solo la fredda cronaca. Avete fatto due pronostici, tu e Federico Novella, che saluto col cuore. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Beato te, che hai voglia di parlare. No, no, no. Comunque di Champions. No, no, no, no, no. Era solo per concludere giornalisticamente parlando. Certo. Non avrei fatto il mio lavoro se non l'avessi concluso. Come a malincuore. Vuoi parlare anche di quello che è successo a Cardiff? No, capisco. Ma no, guarda, io ne ho vinte, ne ho perse, più vinte che perse, devo dire. Però, insomma, so cosa si prova quando si perde una finale di Champions League. L'ho persa a Istanbul, sono drammi sportivi veri. Però. Quando la si perde meritando di aver perso, brucia anche un po' meno. Ma vabbè, persa davvero con un rigore, con un colpo di sfortuna, allora saremo qui a distruggerci. Invece meritavamo, perché non c'eravamo, e quindi ci sta, ci sta. Non so, Marione, ci sta, ti anche... brucia meno? Marione, ti brucia meno? No, no, mi brucia tanto, mi distruggo ancora, non mi è passata. Vabbè, ma non passa, le finali di Champions non passano per un bel po'. A me non è passata di Istanbul, penso un po' ancora, adesso non è ancora passata. Però la battuta migliore che circola è quella per cui i veri tifosi si vedono quando la loro squadra perde, per questo gli interisti sono visibili da Saturno. Questa è la battuta migliore che sta circolando. Non è male, non è male. Di recente potremmo metterla anche per i milanisti, di recente. Venere. Vedono al buio i milanisti. Da Venere, esatto. Dai, apriamo il Parlamento. No, signori, qua c'è da parlare di questioni molto, ragazzi, molto serie. Se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così... Tra l'altro vi dirò, a me sconvolge più quello che è successo a Torino in Piazza San Carlo di quello che è successo a Londra. E non voglio, per carità, far paragoni, non voglio mettere sulla bilancia morti, non morti, eccetera. Ma quello che è successo a Torino, ragazzi, ma cioè, ci fa capire che... Cioè, poi dicono bisogna essere pronti, bisogna essere preparati. È bastata un cretino o due cretini che hanno urlato attentato, hanno urlato bomba, non lo so che cosa hanno gridato. 1500 feriti, e per poco non ci scappa il morto, per poco non ci scappa il morto. C'è un ragazzino di 7 anni che è ferito gravemente, ma dovrebbe essere fuori pericolo. Marione, non lo so, mi inquieta più quello di quello che è successo. Io spero sinceramente una sola cosa, che quei due cretini siano individuati esposti pubblicamente e puniti molto severamente, perché mai come in questo caso serve davvero l'intervento esemplare. E queste cose non devono accadere, perché non devono accadere che a qualcuno possa saltare in testa di fare un'imbecillata del genere. Questo sì, purtroppo è davvero una grande, enorme imbecillata. Non la metto sullo stesso piano, perché l'onda è grave. No, cioè, ma certo. Siamo ma conto chiaro di quello che sta succedendo. Qual solito procediamo di strage in strage una settimana alla volta, per tutto. No, urlando, dicendo anche ora basta. Ma ora basta che cosa? Cioè, c'è una soluzione da parte di hanno in mente qualcosa, o è il classico ora basta perché giovedì si vota e bisogna capitalizzare in Gran Bretagna un po' di voti? No, perché... è ovviamente l'ora basta, è tutto elettorale. Resta il fatto vero che le classi dirigenti non sanno da dove prendere questo fenomeno. Io continuo a dirlo da molto tempo, anche qui da te, che se non prendi per, diciamo, per intelligente la questione religiosa, perché se non capisci quello, non capisci perché tre ragazzi di 20 anni vanno a farsi ammazzare, perché questi vanno a farsi ammazzare, oltre che a uccidere. Ricordiamoci sempre, certo, questo piccolo chiaro particolare. Questi vanno a farsi ammazzare, e che tu non capisci quali siano le ragioni e le motivazioni per cui tre ragazzi di 20 anni vanno deliberatamente a farsi ammazzare, e pensi ogni volta che siano dei cani sciolti pazzi, tu non individuerai le ragioni di un fenomeno che si sta riproponendo con una puntualità sconcertante. Io su questo lo sappiamo, Federico, su questo sono d'accordo con Marione Battaglio su Twitter, a chi mi dice sempre: oh, ma no, ma la religione, ma allora che soluzioni hai? Io rispondo sempre così: solo i bambini dell'asilo e gli ingegneri pensano che ci sia una soluzione a tutto. Solo bimbi e ingegneri, non è detto che ci sia una soluzione, però almeno bisogna riconoscere il problema. Sì, certo, assolutamente, sono assolutamente d'accordo, e c'è chi il problema non lo riconosce. Spesso si dice che siamo in guerra, e anche questa parola non riusciamo bene a spiegarcela. Che cosa vuol dire che siamo in guerra, che dobbiamo combattere? Sì, ma come dobbiamo combattere? Probabilmente, concretamente, bisogna combattere con regole speciali anche sull'immigrazione, probabilmente leggi speciali, autorità speciali, magistrati speciali appositamente dedicati al terrorismo. Probabilmente bisogna fare un po' più la voce grossa con quei cosiddetti musulmani moderati, che sembrano sempre un po' latitanti in questi casi, no? Quando si tratta di un po' di isolare, di segnalare, di denunciare. La cosa che forse il particolare nuovo che mi ha colpito, oltre a Torino, è che a Londra c'è chi ha avuto paura, ma c'è anche chi ha avuto coraggio. Coraggio di prendere una bottiglia, una sedia. Sì, però non è la soluzione, capisci, Federico? No, cioè, riuscire a vivere, vivere così, cioè con una... La soluzione ce lo siamo detti, Alessandro, non lo sappiamo perché non sappiamo con quali armi combattere. Se dovessimo dar retta a Oriana Fallaci, la soluzione è prendere coscienza della diversità tra la nostra civiltà e la civiltà islamica nel suo complesso. E che non è una soluzione, cioè, perché non è la soluzione. Cioè, Oriana Fallaci dice: il problema è quello, ma non è che c'è una soluzione, no, se non una crociata, voglio dire. Probabilmente c'è, ma non ce l'abbiamo ancora. È un labirinto in cui dobbiamo ancora scegliere la strada giusta per poter almeno vederla all'orizzonte, la soluzione. Però adesso non riusciamo a vedere. Non la riusciamo a vedere, e dobbiamo e viviamo così. Ma poi soprattutto nella situazione in cui, certo, se si viene a sapere, e non sarebbe la prima volta, di questa italiana che dice: io l'ho denunciato 2 anni fa questo, perché faceva dei discorsi estremisti, faceva dei discorsi non giusti. E allora forse altro che quando è troppo, no, basta prendere queste persone che fanno questi discorsi estremisti e, non so, espellerli come minimo, e se no metterli in carcere, perché, che ne so, ci sarà un reato per cui, no, istigazione all'odio, non lo so, metterli in carcere per qualcosa o no. Mario, non si può fare, cioè non abbiamo le armi. Io non credo alla soluzione poliziesca, io credo che la soluzione esista, sia stata indicata da Benedetto XVI a Ratisbona 10 anni fa all'Europa in maniera molto chiara, ed è squisitamente religiosa. La dinamica interna all'Islam, che vuol dire una soluzione religiosa? La dinamica interna all'Islam è una dinamica tutta intra-islamica, cioè questa è una guerra dentro l'Islam, per chi assume l'egemonia in una dimensione religiosa dove non esistono gerarchie, non esistono capi. L'ISIS, al-Baghdadi, il califfato, la violenza, come prima fece un altro califfo che si chiamava Bin Laden con Al-Qaeda, che cos'erano quelle realtà? Erano realtà che cercano di assumere l'egemonia dentro il territorio. Capito, ma non possiamo mica risolvere noi il problema islamico. Io penso che invece aiutare un'evoluzione importante dell'Islam, dicendo però la verità all'Islam. Quando cosa è successo alla Lisbona? Cosa fece Papa Benedetto XVI? Andò lì e disse: quello che porta quella religione è violenza. Se non si aiuta quella religione a fare lo stesso percorso che ha fatto il cristianesimo, perché anche il cristianesimo è stata violenza, ma poi a un certo punto ha intersecato una riflessione, diciamo così, più laica, se ne è fatta anche contaminare, è rimasta in piedi come fede, ma ha perso la dimensione violenta. Se questa evoluzione l'Islam non la fa, ci troviamo a questo. Inevitabilmente. Ho capito, però Mario, ma ce la vediamo tra 200 anni, però nel frattempo, in questi 200 anni, che si fa? O tra 10 anni o 15 anni? È una dinamica di potere in corso adesso, non fra 200 anni. Tu devi decidere di rafforzare e sviluppare una capacità dell'Islam non moderato, dell'Islam che accetta la contaminazione con la modernità. Esiste, se tu vai ad Alessandria, ci sono autorità religiose importanti, se non affronti quel piano, ma di quel piano non vogliamo mai parlare. Noi non sappiamo cos'è uno Shahid, non sappiamo cos'è veramente la Jihad, non conosciamo veramente le sure del Corano e cosa dicono, cioè cosa motiva quei ragazzi ad andare a farsi ammazzare. E pensiamo che la risposta sia: adesso mettiamone uno in galera, o 5, o 10, o 20, sono 1.600.000.000, la sacca di forza del fondamentalismo islamico non è relativa a 30 pazzi, è esattamente il percorso che si fece con il terrorismo rosso, che venne sconfitto quando finalmente la sinistra accettò di riconoscere che era un pezzo del proprio alto. Ho capito, dobbiamo aiutare i leader islamici a dire ma è chiaro, cioè non è che possiamo noi andare dai leader islamici a fargli instillare questo dubbio sull'importanza della laicità e la differenza tra la religione di Stato e le leggi dello Stato. Non è un processo, come dire, non è che domani ti svegli e vai lì e dici è così, dovete fare così. È un processo anche lungo, se si vuole. Comunque devo andare un attimo al traffico, poi rientriamo con Maria Dinolfi e Federico Novella. Eccomi Milan, intanto che aspettiamo, dai, che la Juve vince il triplete. Manda il traffico. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Milan, ci sono i gufi. Forza Juve! Oh Maria, sono Anacleto, primo giorno non lavorativo, si sta bene assai. Caro Milan, a me sembra che le leggi elettorali qui in Italia le trucchiamo prima e poi diciamo a Assad che ha truccato le elezioni, ma noi le trucchiamo prima di farle. Cannot and must not pretend that things can continue as they are. Things need to change, and they need to change in four important ways. Sì, vabbè, i proclami che si fanno subito dopo. Non lo so, però Federico Novella, quello che dice Maria Dinolfi, la sfida culturale da vincere, il cambiamento nell'Islam, che vincano, insomma, un Islam laico, eccetera, è una cosa che, per carità, auspichiamo tutti, ma temo invece che al momento dobbiamo rispondere con strumenti di polizia, cioè al momento, se no, voglio dire, tra un po' andiamo alla conta di un attentato al mese, o no, Federico, tu che pensi? Sì, ma guarda, stiamo girando intorno al problema. Strumenti di polizia servono per garantirci nel breve periodo un minimo di regole, di sicurezza, di stabilità, però poi sul lungo periodo bisogna anche affacciarsi dall'altra parte del mondo. Quando parliamo di Islam moderato intendiamo soprattutto i nostri cosiddetti islamici moderati, perché poi nel mondo l'addizione di islamismo moderato è comunque oggetto di discussione, i cosiddetti stati moderati, da partire dall'Arabia Saudita, sono tutti o quasi dittature, sono laici perché sono dittature, e se togli il dittatore si ripresenta una teocrazia. Cioè, purtroppo, come dice Mario, sono due mondi differenti, uno dei quali, quello basato anche sulla cultura cattolica, è diventato laico e si basa sul diritto, anche perché ci sono stati storicamente degli scontri, no? Tra cattolici riformisti, si è trovata una sintesi, che è quello che è il mondo che viviamo, occidentale, che viviamo oggi. L'altro mondo è rimasto un po' indietro, non ha avuto quei passi fondamentali che abbiamo fatto noi. Detto questo, sono d'accordo con te, quello che possiamo fare adesso è darci delle regole certe e tradurle in leggi, essendo orgogliosi dei nostri principi, in attesa, in attesa di che cambi il corso della storia, visto che i buoi sono scappati in questo momento, mio modo di vedere è che bisogna essere pronti, perché dal punto di vista ideale non considerare la nostra storia e i nostri principi come uguali a tutti gli altri, e non vergognarsi di dire che il mondo occidentale per come oggi è frutto di un progresso che gli altri non hanno avuto, e quindi per certi versi la nostra civiltà è migliore delle altre, con tutto il rispetto, diciamo, per le altre, quando non si consegnano alla violenza. Però bisogna avere il coraggio di dirle, di pensarle perlomeno queste cose. Ti ricordi Marione chi lo disse, no? Siamo migliori degli altri. Berlusconi. Certo, lo disse Berlusconi. Ma infatti, ma su questo Civiltà, non si parla di ma no, persone, ma no, di ma no, ma su questo sono totalmente d'accordo. Tu, Mario, sei d'accordo? Siamo migliori? Siamo più progrediti sotto alcuni aspetti, certo con aspetti negativi magari. Io penso che noi ci siamo molto indeboliti nella sostanza. Penso che quello che dobbiamo difendere della nostra, diciamo, civiltà sia diventato molto poco, e questo ci rende estremamente vulnerabili. Quali sono le nostre libertà? Cos'è che difendiamo? Il diritto all'aperitivo, all'iPhone, cosa siamo noi? Perché questo è un evento qua, cioè, la dinamica è estremamente interessante. Il diritto alla libertà di poter scegliere se fare una cosa o no, se far guidare una donna o non farla guidare, se farla andare in minigonna oppure no. È la libertà, però questa cosa, la libertà deve essere la libertà tutta intera. Se noi prendiamo solo dei pizzichi di libertà, che spesso sembrano piuttosto fragili, agli occhi di questi sembriamo una società vulnerabilissima. E l'Islam da 14 secoli attacca l'Europa quando la vede vulnerabile. E l'Europa si salva in un solo momento. Sempre da 14 secoli, divisa, frastagliata, incasinata, con classi dirigenti ignobili. Quando è unita? Si salva quando si unisce e combatte in nome di una ragione forte. Non mi stavi chiamando un'altra crociata, perché in passato ci siamo uniti così, prendendo le armi e le spadoni, andando a fare le crociate. I tempi cambiano, gli strumenti cambiano, ma resta quello al fondo, che se non hai qualcosa per cui combattere, il nemico ti travolge, perché lui è estremamente motivato, lui muore e uccide, tu cosa fai? In nome di cosa ti stai battendo? Per che cosa? Se non riscopri la forza e la volontà di quella libertà che tu uccidi, Alessandro, ma è la libertà tutta intera, allora se no loro capiscono che sei pecora e il lupo arriva, cioè questo è una dimensione molto ma è chiaro. Allora, ovviamente tutto questo, caro Federico Novella, ha annullato, ed è orribile dirlo, ma insomma tutto il dibattito su leggi elettorali, cose italiane, cioè è orribile dirlo, nel senso dobbiamo attendere queste cose orribili, queste tragedie, per vedere sfumate a sole due pagine tutto il dibattito sull'Italia, dove andremo, si va a votare, non si va a votare, ma è venuto un emicrania fulminante stamattina, a leggere. Riconquisteranno le prime pagine anche i nostri politici. Ce la faranno anche loro. Vi voglio far chiudere però con D'Alema, lo psicologo di D'Alema, dai, perché lo psicologo di D'Alema ci vuole sempre per mettere un po' il buon umore. Si ricandida? Ma io non abbiamo proposto, ho proposto, e è stato, tutti dicono di essere d'accordo, che i candidati del nostro movimento, sì, che probabilmente si chiamerà Alleanza per il Cambiamento, sì, saranno scelti dai cittadini attraverso il voto in elezioni primarie. Oh, si metterà in ballo. No, le, le primarie di MDP. Uno strumento nuovo. Le primarie. L'ha detto con un po' di fatica, ce l'ha fatto penare, ma stava dando del senso della storia. No, nel senso della notizia. Stava... Sì, l'ha caricato un po' di pathos. L'ha caricato un po' di pathos. Dire, eh. No, non mi chiedo. Non faceva prima, non faceva prima dire sì. Ti cazzi adesso? Sì, sì, era un concetto dai più complesso. Federico, vabbè, non era più divertente, almeno. Ma no, non è andata a serio. Pensa se fa le primarie e le perde. Ma è stupendo. Ma tu non l'hai capito, D'Alema. Non si è fatto il giocattolino. Dai, facciamo il dibattito sulla legge elettorale. Mandate il primo il tempo. Vabbè. Dai, allora, no, purtroppo non c'è tempo di legge elettorale. Leggete Adinolfi. Ma siete un po' pentiti in chiusura del vostro pronostico? No, siete. Ma no, perché Marione è un po' sì. Pentiti che non si sia realizzato. Marione è un po' grazie, sì. Grazie ai ragazzi bianconeri che sono nei ralletti. Grazie. Anch'io li voglio ringraziare. Anch'io li voglio ringraziare per la partita di sabato. Grazie ragazzi bianconeri, veramente. Grazie Juventini. Viva il triplete, alla prossima. Largo e facile. Numero su Lemina, lo fa fuori secco. Marcelo prova a metterlo in mezzo all'indietro e c'è il gol di Asensio. Trionfo Real Madrid. Pesante questo qua. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Oh, signore, è tornata la mia simpatica ascoltatrice per il lancio della rassegna stampa. Siamo qui alle 7:20. Siete pronti per la lettura dei quotidiani nella rassegna stampa di 24 mattino? Andiamo, Peter Bescapè, forza alpino rosso nero, forza! Anche le proprie lunedì, no! Ed è lunedì 5 giugno, i titoli, come potete immaginare, dei giornali sono tutti dedicati praticamente alla doppia vicenda legata al terrorismo in un caso e all'allarme panico terrorismo, quello di Torino, nell'altro caso. Troppo tolleranti con gli estremisti, questo è il titolo del Corriere della Sera. La Premier May cambia linea sull'islamismo radicale. Adesso basta. 12 arresti a London East. Anche il Messaggero: Londra si ribella, basta tolleranza. Mentre alcuni quotidiani mettono in primo piano quello che è successo a Torino in Piazza San Carlo durante la partita di Champions League sabato, cioè il panico che si è scatenato per una bravata, questo ormai sembra accertato, qualcuno che ha urlato attentato. Alcol, bottiglie, ultra, lo scandalo di Torino è il titolo di Repubblica in prima pagina, mentre La Stampa: Piazza San Carlo caccia i colpevoli. Per il Giorno: attacco di panico, questo è il titolo di prima pagina, mentre Libero: il delirio di Torino, ci siamo fatti l'attentato da soli. Vince la paura è il titolo del Giornale. Come vedete, le aperture sono tutte dedicate a questo. Le uniche due aperture diverse, vabbè, l'edizione del Sole 24 Ore del lunedì, la mappa dei redditi italiani stretti tra crisi e sommerso, mentre il Fatto Quotidiano, un'intervista a Prodi: sono vicino al PD, ma se Renzi si mette con Berlusconi, io vado altrove. Queste le aperture, in questo caso politico, per il Fatto Quotidiano. Allora, partiamo da Londra. Partiamo da Londra perché sabato notte c'è stato questo attentato con 7 morti, con 3 attentatori che poi sono stati uccisi e che hanno accoltellato i passanti. Titolo di pagina 3 del Corriere della Sera della cronaca: così ci siamo difesi con sedie e bottiglie. Al ristorante Feng Sushi a Borough Market, il manager 23enne del locale, Alex Nipples, si è trovato faccia a faccia con uno degli assassini. Il terrorista brandiva un pugnale sporco di sangue al di là del vetro della porta e cercava di infrangerlo gridando: «Questo è per Allah!». Allora Alex ha fatto scendere i clienti nel sottoscala, ha distribuito i coltelli da cucina, così avrebbero potuto difendersi lame contro lame. Non è stato l'unico momento di reazione e di eroismo. Mentre i tre killer facevano strage di passanti di fronte a bar e ristoranti ai piedi del London Bridge, altri cercavano di ostacolarli lanciando contro i loro sedie, bottiglie, bicchieri. Un tassista che passava, visto la scena, fatto in versione, ha provato a mettere sotto uno dei terroristi. Un poliziotto ha tentato di fermarli armato solo del suo manganello e è stato ferito gravemente. Un altro passante ha visto un'auto di agenti armati e li ha indirizzati, una scarica di colpi di pistola, e i terroristi erano a terra morti. L'indicazione dell'autorità in questi casi è run, hide, tell, cioè scappa, nasconditi e informa, ma questa volta i londinesi hanno reagito e hanno affrontato il terrore a mani nude. Tutto è durato 8 minuti da quando è stato lanciato il primo allarme al momento in cui è stata messa fine alla strage. 8 minuti che devono essere sembrati 8 ore a chi cercava di fuggire alla furia omicidia dei tre fanatici. Questa è la cronaca di Luigi Ippolito a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. E ovviamente le foto, in questo caso, come sempre, io lo dico, le foto dei giornali raccontano tanto quanto gli articoli, tanto quanto le parole. Cioè, per esempio, questa foto di tutti gli noi occidentali, gente di Londra, ma città multiculturale, quindi gente di tutto il mondo, che evacuava la zona colpita con le mani in alto, no? Come da indicazione della polizia, in una sorta di immagine, non dico di resa, ma di debolezza nei confronti di chi ci ha colpito. E poi ci sono le parole e i proclami, come sempre. Allora, ieri c'è stata una retata nel covo dei pakistani, così viene definito Barking, la zona di Barking, Londra. Ebbene, leggere per esempio pagina 11 di Repubblica, Fabio Tonacci, sentite la testimonianza tra l'altro di un'italiana che vive lì, si chiama Erika. Quell'uomo è uno dei tre killer, era il mio vicino di casa e 2 anni fa l'ho denunciato alla polizia perché faceva discorsi strani sull'Islam a mio figlio piccolo. Si chiama Erika Gasparri, si è trasferita a Barking, East London, 14 anni fa col marito, e dice queste parole: Scotland Yard sapeva che era un pericoloso radicalizzato. Un volto senza nome, con la barba e un copricapo bianco, immortalato in una fotografia che i cronisti inglesi ritengono essere uno dei tre attentatori, viene indicato da questa donna a dire: l'abbiamo denunciato 2 anni fa e tutti sapevano. E allora, quando si sentono le parole, no, quelle parole che hanno risuonato molto forte da parte della premier britannica, enough is enough, cioè quando è troppo, ora basta, ora cambiamo, sembrano sempre proclami. Intanto a fini elettorali, ricordiamo che giovedì si vota in Gran Bretagna. E quindi Theresa May che sfida l'Islam radicale, cosa vuol dire? Useremo il pugno duro, l'aveva detto anche il presidente francese Hollande dopo il Bataclan, ora basta, o saremo durissimi. Sono quelle frasi senza senso, quelle frasi vuote, quelle frasi che in realtà non prevedono una strategia. E infatti oggi vi invito a leggere Paolo Mieli in prima pagina del Corriere della Sera. Le parole per dirlo. Dice Theresa May: quando è troppo, e il ministro degli esteri Boris Johnson promette ai terroristi non sarà consentito di distruggere la nostra democrazia. Per poi aggiungere: oggi milioni di londinesi continueranno la loro vita, andranno al pub, al museo, ai parchi, a vedere spettacoli. Questa sarà la migliore risposta. Quante volte abbiamo ascoltato queste parole, si chiede Paolo Mieli. In genere il leader di turno conclude con annunci di reazioni durissime. Spietate, disse François Hollande dopo la strage del Bataclan. E poi continua Mieli: effettivamente la prima cosa che una donna o un uomo di governo dovrebbero fare nei minuti successivi a un attentato è pronunciare sì parole di cordoglio, ma evitare di promettere ritorsioni che tutti sappiamo non essere praticabili. Ci basta sapere che negli ultimi mesi in Gran Bretagna su 8 attentati ne sono andati a segno solo 3, gli altri sono stati sventati. E sarebbe più saggio non dare neanche l'illusione che da adesso in poi, grazie a chissà quali svolte di atti terroristici, non ne vedremo più. Meglio ancora raffinare le analisi di un fenomeno che ci accompagnerà per chissà quanti anni ancora. Chi sostiene di avere soluzioni militari pronte per l'uso, sia qui che lì, è un ingenuo semplificatore o peggio un imbroglione. L'unica cosa che possiamo fare che ci compete e approfondire la discussione sulle categorie a cui facciamo ricorso per affrontare una questione, quella del radicalismo islamico, che ormai ci accompagna da oltre un quindicennio. E qui Paolo Meli si inoltre in un'analisi in cui fa capire che intanto, la traduco io così, bisognerebbe rendersi conto che c'è un problema invece di far finta di nulla. Per esempio, quando a Colonia, a Capodanno del 2016, gruppi di ragazzi musulmani molestarono 1200 donne di ogni età in un'azione evidentemente coordinata, in Francia ci fu chi cercò di minimizzare. Elisabeth Badinter in quell'occasione definì scioccante la negazione da parte di alcune femministe militanti francesi che han preso le difese degli aggressori anziché delle vittime. Secondo il filosofo Michel Onfray, il termine islamofobia sarebbe addirittura da bandire, non corrisponde a niente di realmente esistente. È un concetto polemico utilizzato per impedire ogni riflessione sull'Islam che non sia un pensiero di reverenza. Siamo in presenza di un anti-islamista militante? No. Insomma, abbiamo l'impressione che le proclamazioni stentoree non si accompagnino in genere a discussioni profonde. Anzi, spesso è l'opposto. Coloro che ad ogni attentato incitano a continuare a vivere come si faceva prima e nel contempo annunciano l'uso da questo momento di maniere forti, non si sa né dove né contro chi, dicono cose che da tempo han perso di senso. Meglio affidarci a chi non offre soluzione e propone riflessioni. Almeno forse faremo qualche passo avanti e non rimarremo inchiodati al punto in cui siamo fermi da anni. Così Paolo Mieli, il suo commento è: la guerra ai terroristi si fa con le parole giuste. E effettivamente minacciare ritorsioni, dire faremo questo, ora basta, sono le classiche parole al vento per racimolare. Ricordatevelo sempre qualche voto in più. Dai, oggi gli articoli che fanno sono tanti, è inutile dunque dare il premio mani sul volante. Riprendiamo subito dopo la pubblicità con che cosa? Beh, l'altra vicenda, quella di Torino con 1500 feriti per un attentato che neanche c'era. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Finché le lunedì, ma è tu scontento perché ha perdu la Juventus. E vabbè, sono niente, dai, per il triplete facciamo l'anno prossimo magari, chi lo sa. Non era quest'anno, non aveva vinto quest'anno. Vabbè. Allora, in realtà il calcio, come dire, è stato messo da parte, è stato superato da quelle che sono state le tragedie. Londra, ma anche Piazza San Carlo, dove ci sono stati 1527 feriti per la fuga dopo che è stata compiuta quella che è definita da tutti una bravata, 20 minuti di panico, una bravata. Questo è il titolo, per esempio, della cronaca, pagina 10-11 del Corriere della Sera, Marco Imarisio. Alla fine è stato un gioco da ragazzi. Su una colonna esterna dei portici c'è l'impronta insanguinata di una mano e coi rivoli qualcuno ci ha scritto no. Ognuno si porterà scritto sulla pelle il ricordo peggiore, c'è solo da scegliere, di questa serata terribile in cui si racconta, nella cronaca di Marco Imarisio ancora, del fatto che probabilmente sia stata proprio una bravata, uno scherzo imbecille che ha scatenato 20 minuti di panico, ha reso la scorsa notte un futuro caso di scuola sulla psicosi da terrorismo. Non è neppure così importante chi ne è stato l'autore, la sua identità. Sappiamo che c'è un prima calmo e silenzioso a causa della sconfitta incombente della Juve e un dopo che comincia alle 22:25 subito dopo il terzo gol del Real Madrid. Il fermo immagine su un gruppo nella parte di piazza dove la folla si fa più rarefatta, verso Piazza Castello, a 60 metri dal megaschermo. C'è un ragazzo a petto nudo con uno zaino nero sulle spalle, intorno a lui si crea il vuoto. La gente corre in avanti, corre dappertutto tranne che verso di lui. Il ragazzo alza le mani, potrebbe sembrare la posa di un kamikaze o il tentativo di voler fermare l'onda, quasi a voler dire «non è quello che credete, non abbiamo fatto niente». Le testimonianze riferiscono che il suo amico avrebbe accompagnato un suo gesto, un suono, con l'urlo «è un attentato». I due giovani, entrambi lombardi, uno di loro ha una segnalazione per tafferugli da curva, sono stati già riconosciuti, entrati in questura alle 14, ne sono usciti dopo 10 ore di testimonianze confuse, a volte contraddittorie. Si sono spinti ad ammettere che c'è stato un momento di confusione dove qualcuno, comunque non loro, dicono, avrebbe fatto una stupidata. Comunque sono liberi finora e pare neppure inseguiti da una denuncia per procurato allarme. Fin qui la cronaca. Anche Repubblica dice che questo giovane, ne avete visto forse la foto tutti, è stato individuato, si chiama Davide, si dice per ora così, il ragazzo a torso nudo con lo zaino. Davide, che a un certo punto esce dalla questura e dice «non ho fatto niente», mentre la fidanzata, che tra l'altro in uno dei video si vede a un certo punto questa ragazza che lo porta via, è invece più preoccupata, lo accusano di aver provocato 1500 feriti. Lui rincara la dose, dice ora rischio pure il lavoro. Ciò che conta è quello che è successo, anche con le polemiche. Per esempio, perché non era vietato la vendita di bottiglie di vetro se è vero che su 1527 feriti la stragrande maggioranza dei feriti è stato legato ai cocci di bottiglia, al fatto che la gente ha perso le scarpe e quindi ha camminato sul vetro, oppure è caduta e quindi ha messo le mani o pezzi di corpo sul vetro? Perché c'era la possibilità di vendere il vetro? Una delle polemiche che c'è, giustamente, e andrà affrontata. Niente divieto per il vetro. Il comune finisce sotto accusa. Pagina 3 della Stampa. Il Day After di Torino, racconta la Stampa, lo descrivono i freddi numeri dettati da un comunicato congiunto alla fine della riunione del tavolo della sicurezza. 1527 persone hanno fatto ricorso alle cure mediche, oltre 300 fuori dalla città e molti di loro saranno dimessi, ma ci sono 3 persone, tra cui un bambino, ricoverati in prognosi riservata. La prima questione è proprio questa: è stata emanata l'ordinanza di divieto di vendita di bevande in vetro? E se sì, come è stata fatta rispettare? Ieri mattina la sindaca Chiara Appendino ai giornalisti che chiedevano conto ha detto «pensiamo alle persone ferite», dribblando la questione. Il tema però è stato affrontato nel corso del tavolo sulla sicurezza. C'era questa ordinanza? Non si sa. Tra l'altro, se si gira pagina, Alessandro Mondo racconta, pagina 4 della Stampa, che all'ospedale Mauriziano a un certo punto, nella notte, era finito il filo per le suture, con gli infermieri che sono dovuti andare di corsa al dispensario per recuperare altro dal lotto catastrofi, cioè dal magazzino dove è stoccato materiale di riserva da utilizzare per gli eventi eccezionali. Cioè sono finiti anche ago e filo per le suture, con i medici che dicono mai vista una cosa simile, a raccontare proprio le ferite da taglio. Tra l'altro vi segnalo su Repubblica a pagina 7, a cura di Alberto Custodero, anche, come dire, d'altronde apparteniamo a un mondo in cui dobbiamo fare i conti anche con questo. C'è un vademecum su come ci si deve comportare in queste situazioni. Ve lo segnalo. Qual è la prima cosa da fare quando ci si trova in mezzo a una folla in preda al panico? Dice Angelo Porcu, vice direttore dei Vigili del Fuoco. Innanzitutto è fondamentale capire cosa sta succedendo e mantenere calma e lucidità. Non bisogna mai contrastare il movimento della folla. che diventa inarrestabile, conviene assecondarlo appena ci si accorge della sua spinta. La forza di compressione della massa di gente che si muove in preda al panico è enorme, incontenibile. Evitare assolutamente di restare fermi tentando di contrastare il flusso. Peggio andare contro la folla, meglio assecondare il flusso. In presenza di bambini, che fare? I bambini vanno sempre messi davanti all'adulto o presi in braccio, mai sulle spalle, troppo pericoloso perché si rischia di perdere l'equilibrio e cadere. La caduta è pericolosissima, bisogna subito cercare di rialzarsi. Se non ci si riesce, meglio stare seduti col busto alzato, perché la gente in preda al panico si accorge che c'è qualcuno a terra e d'istinto è portata a evitarla e a non calpestarla, ma appena si può, bisogna rialzarsi. E poi bisogna guardarsi intorno per cercare un'ansa, una zona nella quale ripararsi, ma la via di fuga deve essere conosciuta, altrimenti si rischia di finire in un vicolo cieco che in questi casi si trasforma in una trappola mortale. E ovviamente, insomma, è angosciante dover leggere sui giornali anche il vademecum per questo tipo di situazioni. D'altronde, come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 8 del Corriere della Sera, da parte del Ministero dell'Interno, da parte dei Minniti, l'idea è questa: ora cambiare i dispositivi, o la sicurezza al massimo oppure gli eventi saranno vietati. D'altronde ci saranno 1700 concerti e manifestazioni quest'estate. La psicosi collettiva evidentemente ora è uno dei nuovi nemici dopo quello che è successo in Piazza San Carlo. E sul Corriere della Sera si racconta come il Ministero dell'Interno sta cercando di affrontare, sarà un'estate di concerti, un'estate di aggregazioni, un'estate di manifestazioni, anche questo nuovo nemico. Certo, forse non lo si affronta come ha fatto il senatore Airola, che poi è vero ha chiesto scusa, senatore del Movimento 5 Stelle, ma che dopo poche ore dall'attentato, da quello che è successo a Piazza San Carlo, ha compiuto una vera e propria gaffe, accusando su Facebook praticamente i media di voler gonfiare per infangare il buon lavoro dell'amministrazione di Torino, del Movimento 5 Stelle e anche della Prefettura e della Questura, gonfiando il numero dei feriti. I colpiti, cifre farlocche per infangare il senatore del Movimento 5 Stelle, i complotti, poi si scusa. Tra l'altro anche la stessa Chiara Appendino, sindaco di Torino, ha passato la giornata e le ore successive a questa vicenda, era a Cardiff tra l'altro a seguire la partita della Juve, sono mortificata, la sindaca in lacrime nel giorno più lungo. Quando l'hanno avvisata alle 22.35 con un messaggio del portavoce: Chiara, abbiamo un grosso problema, lei era nella prima fila della tribuna autorità a Cardiff, accanto a lei il ministro dell'interno Minniti, ha aspettato la fine della partita per poi avvisare tutti, pare che a Torino sia scoppiato un petardo, ci sia stato molto panico, e poi a dire: non capisco come sia possibile portare in piazza aggeggi del genere riferita ai petardi, sono mortificata, la verità è che non doveva succedere tutto questo, punto. Eh sì, non doveva succedere, ma purtroppo abbiamo a che fare con un mondo un po' cambiato negli ultimi anni. In tutto questo il buon Mauro Meazza non ci sarà con noi questa settimana, e allora siamo noi che andiamo al traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Alessandro Milan, il Real Madrid dell'informazione. Beh, insomma, non un triplete ma un quadruplete, quindi insomma, alla grande. Allora, signori, c'è da parlare anche di legge elettorale. La legge elettorale. Ricordate che non siete voi quelli strani, io ve lo dico, se non capite le questioni di legge elettorale, siamo tra l'altro all'inizio della 25esima settimana decisiva per cambiare la legge elettorale, nonché la 214esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, questo si sa. Comunque c'è un accordo sulla legge elettorale, un accordo che regge, un accordo che non mostra crepe. L'accordo su che cosa? Per esempio... sono stati diminuiti da 303 a 225 i collegi uninominali, passano da 27 a 28 le circoscrizioni, questo nell'accordo, questo per garantire il seggio ai vincitori dei collegi. Se non avete capito, non importa, voi non dovete capire la legge elettorale, non siete esperti di legge elettorale, non lo sono io, non, noi cittadini non dobbiamo essere esperti di legge elettorale. Esiste un principio che si chiama delega. Votiamo i parlamentari perché facciano una benedetta legge elettorale che funzioni e permetta di governare una volta che andiamo alle elezioni. Noi dobbiamo solo guardare, vedere, votare i politici che ci ispirano più fiducia e poi la legge elettorale deve tramutare questo in una maggioranza di governo. Capito? Non dobbiamo noi essere esperti di legge elettorale. E io aggiungo di più, mi sono rotto i cosiddetti di leggere tecnicismi e tecnicalità sulla legge elettorale, che nessuno capisce. Ok? Però ci sono pagine e pagine. La politica racconta anche di interviste. Come Romano Prodi, che viene intervistato dal Fatto Quotidiano, da Giampiero Calapà, pagina 5. Il succo, ovviamente parla anche di Londra, dell'attentato, eccetera, ma il succo dell'intervista è questa: la mia tenda è vicina al PD, ma se arriva Berlusconi vado altrove. E quindi un Romano Prodi che dice va bene tutto, ma non l'unione con Berlusconi. Lo stesso dice Rosi Bindi, intervistata da Repubblica, da Giovanna Casadio: il PD si fermi su questa legge o non sarà più il mio partito. Si va verso un Renzi-Berlusconi, mi pare l'unico scenario possibile, dice Rosi Bindi. Sono convinta che i 5 Stelle siano terrorizzati dall'idea di andare al governo e accettando l'accordo sul proporzionale lo dimostrano. Dunque anche Rosi Bindi dice attenzione, lascio il partito. Giri pagina su Repubblica, pagina 16, Carmelo Lopapa, l'addio di Verdini, anche Verdini, meglio chiudere qui con la politica, sarò leader ma non parlamentare per affrontare i processi. E vabbè ragazzi, non è che tutti i lunedì portano tutte notizie così nefaste, come dire, anche per quel che riguarda la politica. Comunque staremo a vedere. Ora vi do qualche numero, l'apertura del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore in prima pagina, edizione del lunedì, oggi fa un'interessante analisi tra gli importi dichiarati nel 2016 e quelli pre-recessione, una mappa dei redditi italiani. Attenzione perché sul Sole 24 Ore trovate provincia per provincia tutti i vostri redditi, o meglio la media ovviamente, dei redditi provincia per provincia. La crisi ha ridotto i redditi degli italiani in 2 province su 3, con punte particolarmente pronunciate. Sapete dove si registra il calo maggiore? Lo si registra a Prato. Cristiano Dell'Oste e Raffaele Lungarella raccontano a pagina 2-3, fallo vedere Lorenzo che ci sono anche delle infografiche molto interessanti, facciamo vedere sulla mia pagina Facebook, pagina pubblica, siamo in diretta video in questo momento. È Prato la provincia in cui il reddito degli italiani ha sofferto di più la crisi. I 20.188 euro dichiarati in media nel 2016 incorporano con un calo del 6,22% a parità di potere d'acquisto rispetto all'anno d'imposta 2007. Quindi questo è il raffronto 2007-2016. Seguono tra le peggiori province le province di Olbia Tempio e Barletta Andria Trani. Sono dati elaborati dal Sole a partire dalle statistiche delle finanze su base comunale e inquadrano così l'evoluzione degli importi dichiarati al fisco nel periodo di maggior sofferenza dell'economia. Invece i più ricchi, cioè quelli che hanno avuto una variazione nelle province più ricche: Milano più 0,8, Roma, Bologna, Monza, Brianza, Parma, Lecco, Firenze, Genova, Bolzano, Padova. Ricconi. Lo so che adesso arrivano dei vaffa giganti, ma queste sono le province che vanno meglio. A proposito di numeri, vi segnalo anche quanto racconta Ettore Livini a pagina 17 di Repubblica, sapete quant'è il gettito grazie a Bacco, Tabacco e Slot? Non Bacco, Tabacco e Venere, perché Venere non è... Bacco, Tabacco e Slot. Quanto guadagna lo Stato dal vizio degli italiani? Nel 2016 tutto ciò ha fatturato un gettito di quasi 25 miliardi di euro, quasi quanto le accise sui carburanti. Nei primi tre mesi del 2017, grazie al balzo del più 15,9% delle entrate da apparecchi e congegni da gioco, è arrivato il sorpasso. Benzina e diesel hanno portato 5 miliardi nelle casse del tesoro, i dazi sui vizi ne ha raccolti 6 miliardi, quindi pare che nel 2017 si guadagnerà anche più di 25 miliardi da parte dello Stato per Bacco, Tabacco e Slot. E va bene, vi segnalo anche un'intervista a Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata da Emanuele Buzzi. Trovate un'intervista di una pagina sul Corriere della Sera, il titolo «Io e le chat con Marra non ho nulla da nascondere», risponde così, «non temo nulla, non ho niente da nascondere», e poi parla dei campi Rom che chiuderò. La giunta è compatta, a Roma ci sono 9 campi Rom autorizzati, dice al Corriere Virginia Raggi, per iniziare ne chiuderemo 2 e faremo tornare alla legalità intere zone della città. È l'inizio della fine dei campi Rom, così annuncia il sindaco di Roma Virginia Raggi in un'intervista di una pagina sul Corriere della Sera. Va bene, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali a proposito di carta, la carta con cui si fanno i tovaglioli da bar o da ristorante laddove ci sono i tovaglioli di carta. Il tovagliolino da bar, mezza pagina del Fatto Quotidiano, a firma Luca Sommi, su questa inutilità alle estreme conseguenze, perché sono piccoli, rigidi, fatti di una carta miserrima, spesso non asciugano, non puliscono e non assorbono. I tovagliolini da bar! Ma chi se ne frega!